Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Sono i materiali fluorescenti più brillanti di sempre. Li hanno messi a punto Amar Flood, chimico dell'Università dell'Indiana, e Bo Lawson, spero di aver pronunciato correttamente questo cognome, dell'Università di Copenaghen. Questi materiali sono poi stati descritti su uno studio apparso sulla rivista Chem. Ne parliamo di questi materiali sorprendenti. C'è un'immagine su internet e anche insomma nell'articolo appunto che è molto affascinante. Si vedono degli oggetti stampati in 3D che incorporano questi materiali appunto fluorescenti, che sono estremamente brillanti e luminosi. Ne parliamo, dicevo, con Sergio Brovelli, professore di fisica dell'Università Milano Bicocca, è stato tante volte nostro ospite. Ciao Sergio, bentornato. Buonasera Maurizio. Allora, per prima cosa, Sergio, ti chiedo di ricordarci che cos'è e come funziona più o meno insomma la fluorescenza. Forse noi tutti abbiamo più dimestichezza con un'altra cosa, che è la fosforescenza, che è imparentata, sono quegli oggetti, no, che mettiamo, le stelline che mettiamo sul muro davanti al letto dei bambini, che appunto si caricano con la luce diurna e poi durante la notte rilasciano un po' di luce. Invece, che cos'è la fluorescenza? Sì, come dici giustamente, la fluorescenza è un processo molto simile, gemello direi, della fosforescenza, ed è il processo per cui un materiale emette luce a seguito di assorbimento di radiazione luminosa. La meccanica quantistica spiega questo processo come proprio l'eccitazione di un materiale da un suo stato fondamentale, uno stato eccitato si chiama, dovuto all'assorbimento luminoso. La fluorescenza è proprio il processo che riporta allo stato fondamentale, allo stato di partenza, il materiale a seguito di emissione di luce. Quindi il materiale si eccita assorbendo della radiazione luminosa e poi si scarica, diciamo, scarica l'eccitazione riemettendo dell'altra radiazione luminosa, della luce. Però non luce qualsiasi. No, è una luce di un colore che dipende dalla struttura della molecola che si sta utilizzando. Proprio della molecola fluorescente, quindi questo processo è utilizzato moltissimo per modificare il colore della luce per applicazioni diverse. Perché io illumino questo materiale con un qualunque tipo di luce, magari non proprio qualunque, insomma, ma con un qualunque tipo di luce, e lui riemette luce invece sempre dello stesso colore, per esempio verde piuttosto che rossa piuttosto che blu. Esattamente. Benissimo. Esattamente. Ecco, allora, che cosa ci puoi dire invece di questi materiali super fluorescenti, così come sono stati descritti in questo articolo su Chem? Sì, questo articolo su Chem affronta un problema che è presente da molti anni nella comunità degli scienziati che studiano molecole fluorescenti, ovvero la capacità di preservare le proprietà di fluorescenza, per l'appunto, delle molecole quando si passa dallo stato liquido, in cui queste molecole vengono prodotte per via sintetica, allo stato solido, quindi per produrre delle polveri o dei film sottili, che poi sono quelle che servono per le applicazioni nei dispositivi. Quello che tipicamente succede è che molecole fluorescenti in stato solido si impaccano una con l'altra, perché sono molto vicine, e, la dico in modo molto semplice, mischiano i loro stati elettronici dando luogo a delle proprietà ottiche diverse, tipicamente peggiori di quelle della molecola di partenza. Quindi si impaccano, si appiccicano una all'altra elettronicamente, e il colore della luminescenza cambia e l'efficienza del processo tipicamente diminuisce, quindi il sistema diventa meno emissivo e anche meno luminoso, quindi, insomma, appunto. Esatto, quindi meno luminoso. Quindi per molti anni si sono cercate delle strategie per proteggere le molecole dal fatto che loro tendono ad aggregare, si dice. Questo studio affronta questo problema sviluppando dei sistemi intercalati, in cui vengono mischiate delle molecole luminescenti, in questo caso particolare commerciali, e questo è uno dei vantaggi di questo studio. Certo. Non richiede molecole strane, certo, o molto complesse fatte in laboratorio, ma molecole commerciali, vengono miscelate con delle molecole di carica elettrica opposta, sono entrambi sistemi ionici, e questo dà luogo a delle sorte di impilamenti con molecola positiva, molecola negativa, molecola positiva, delle stratificazioni, insomma, dove queste molecole aggiuntive tengono separate le altre, impediscono a quelle fluorescenti di toccarsi e di interferire l'una con l'altra. E infatti il grosso risultato di questo studio è che per unità di volume, quindi per centimetro cubo, questi materiali sono i più fluorescenti mai realizzati, proprio perché la loro strategia permette di impaccare tantissime molecole in un piccolo volume, seppur tenendole elettronicamente distinte, separate. Chiarissimo. Allora, quali sono le applicazioni di questi materiali? Lo chiedo a te perché voi siete tra coloro che utilizzano la fluorescenza, per esempio, nel settore dell'energia. Sì, la prima applicazione che viene in mente per questo tipo di materiali è quello proprio della conversione della luce. Tecnologicamente è più facile produrre luce di certi colori piuttosto che di altri, e quindi è necessario avere delle strategie, quindi dei materiali, che convertano questa luce prodotta efficacemente con dei dispositivi, ad esempio dei LED, in colori diversi che ci servono, ad esempio nei display. Ne abbiamo in tasca tutti gli schermi dei telefonini, funzionano in questo modo, hanno all'interno dei convertitori cromatici che funzionano proprio per fluorescenza. Noi utilizziamo processi relativamente simili per convertire la luce da un colore all'altro, invece per produrre energia elettrica nel nostro startup. Ecco, ricordiamolo, Glass to Power, voi fate delle finestre trasparenti al cui interno, annegati nella lastra, diciamo, trasparente, ci sono proprio delle particelle fluorescenti che catturano la luce, gli cambiano il colore in modo da tenerla intrappolata nella lastra, poterla catturare, eccetera, eccetera. Esattamente. Noi svolgiamo questa funzione con dei materiali che sviluppiamo apposta, che sono in grado di assorbire nella fattispecie luce solare, in tutto il suo spettro, e convertirla in luce infrarossa, che poi trasformiamo in elettricità all'interno del nostro dispositivo. Ma il principio base su cui si basa anche il nostro, la nostra tecnologia, è proprio la conversione della luce da un colore, da una zona spettrale ad un'altra. Grazie allora, grazie Sergio Brovelli. Grazie a te Maurizio, buona serata. Bene cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.